Radio 24. Libera la voglia di fare. Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Mamma mia! Questa è la fine del mondo, Mamma mia, qui! Oddio, casa mia! Nella luce non c'ho più niente io! Signora, oddio, venga qua, signora! Io. A me colpì questa notte, mentre seguivo su Sky le vicende in diretta del nuovo terremoto, questa donna presa dalle telecamere proprio nell'istante in cui si rende conto che le è crollata la casa. Mamma mia, non c'ho più niente, dov'è casa mia? Improvvisamente per questa signora anziana scompare la casa e scompare il mondo. La casa è il perimetro della sua certezza di esistere. Cade la casa, lei non esiste più. A lei probabilmente in quell'istante, in quel momento, non importa che le daranno un'altra casa, le potranno ricostruire un'altra casa, potranno prenderla e portarla in un posto anche più bello, anche più confortevole, anche più attrezzato, che quella vecchia casa di pietra. Per lei quella era la casa e quello era il mondo. Io oggi non voglio tanto aggiungere quello che già stanno egregiamente dicendo e facendo i colleghi del giornale radio nel darvi la cronaca dei luoghi in cui si è verificato questa notte un nuovo sisma, un sisma diffuso, un sisma che non ha colpito soltanto la stretta zona dell'epicentro, delle zone limitrofe, un sisma che abbiamo sentito tutti. Questa notte, camminando per Viale Mazzini, quartiere Prati di Roma, vedevo tutti i miei vicini di casa, ho incontrato la mia amica Flavia col marito, con la figlia, con il cagnolino, che hanno lasciato a metà la cena, erano scesi per strada. Ho incontrato tutte le persone che vedo ogni mattina uscendo di casa, andando a lavorare, in un quartiere che nulla a che fare con Visso, nulla a che fare con i luoghi in cui sono cadute veramente le case. Un quartiere che improvvisamente ha visto persone di tutt'altro tipo, di tutt'altra origine, con tutti altri mestieri, con tutt'altre prospettive, con tutt'altre case, con delle case che sono state costruite fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Erano dei grossi palazzi, alcuni fatti da cooperative di ufficiali, perché Prati era soltanto il quartiere dove si facevano le operazioni belliche, altre un pochino più lussuose, case che occupano oggi soprattutto studi di avvocati, studi di commercialisti, studi di notai e studi come quello in cui ogni giorno mi produco io, o case come quelle in cui vivo io. E non siamo le case fatte di pietra nelle montagne delle Marche o dell'Abruzzo o della estrema Umbria, siamo nel quartiere Prati e tutti siamo scesi per strada perché pensavamo in quel momento che potessero anche cadere le nostre case. Ricevevo messaggi, telefonate da amici, da amiche che si trovavano in altri quartieri di Roma, chi a Ponte Milvio, chi si trovava nel centro di Roma, chi si trovava da altre parti, chi nel quartiere Marconi, che hanno lo stesso problema. Uscirono di casa perché pensavano che probabilmente per una ipotesi probabilmente più remota ma comunque percepibile potesse cadere anche la casa loro. Io ho visto tremare il marmo che spesso centimetri del mio tavolo di cucina mentre mi mangiavo la minestra e ho capito che dovevo scendere alla fretta, prendere Tommy e scappare via, andarmene di quella casa. Anch'io sono stato nel quartiere Prati camminando con gli altri amici lungo le strade, probabilmente cittadini strafighetti di Roma, tutti noi lontanamente, nemmeno vicini al senso che le case potessero crollare, eppure ci abbiamo pensato un attimo. A cosa attribuite voi il senso di essere casa? Qual è casa vostra? Qual è quel luogo irrinunciabile per cui pensate se cade quello vi cade il mondo? Ammesso ne vediano un'altra, ne abbiate altre, abbiate 10 case, 100 case, seconde case, cos'è casa vostra? Io vi dico per me non è casa mia d'origine dove sono nato, non me la ricordo più, non la voglio nemmeno più vedere, le poche volte che l'ho rivista da adulto mi sembrava tutto piccolo, tutto angusto, mi sembrava essere Alice nel Paese del Meraviglia che aveva mangiato il fungo e improvvisamente era diventata enorme, non era più casa mia. Ancora meno sento mia la casa in cui poi ho cresciuto i miei figli. Ma perché? Perché ormai vivo soprattutto in uno studio. E il mio studio è il luogo dove sono le mie cose. Dove chiudo la porta a chiave, quando rientro trovo tutto esattamente nella stessa posizione. Non c'è una donna che mi pulisce, mi toglie la polvere, che mi mette in ordine. Il mio disordine è la mia vita. La mia casa è il luogo in cui posso espandermi liberamente nel mio disordine. Per voi cos'è casa vostra? 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. Allora, in questo momento fare il calcolo è semplice perché siamo praticamente tutti sfollati. Non saprei ancora dire quanti per bisogno, quanti per paura, ma per i prossimi giorni sicuramente lo saremo tutti. Io ipotizzo ad oggi che potrebbero essere appunto i 2/3 e quindi immagino circa 800 persone che avranno bisogno di un posto letto. Ho chiesto la disponibilità di un pullman per far mettere le persone qui davanti. Abbiamo iniziato subito a allestire dei posti letto nel garage, quella rimessa alla Croce Rossa. Ho chiesto alla Protezione Civile le tende da mettere nella palestra comunale che è utilizzabile. In questo modo però riusciremo a soddisfare circa 800 24 00 24. Cosa ritenete che debba contraddistinguere quella che è casa vostra? Quando vi sentite a casa vostra? Quando girate la chiave in una toppa, entrate e sentite subito l'odore a voi familiare? Non è l'odore ostile, è l'odore di qualcosa che non vi appartiene, è il vostro odore. Quando posate i piedi su un pavimento e anche occhi chiusi riconoscete ogni angolo di quel luogo. Quando rivedete e ritrovate le cose che vi danno il senso della vostra vita vissuta e vi danno anche il senso della vostra vita ancora da vivere. Beh, questa è casa vostra. E voi cosa determinate che sia casa vostra? Qual è la differenza fra casa vostra e un posto bellissimo che vi mettono a disposizione, vi danno incomodato d'uso, vi regalano, vi prestano? Chiedo scusa e lo dico adesso, ma non lo dirò mai più. Questa non è la mia voce di sempre, ogni tanto esce fuori qualche acuto. È una voce che è stata in qualche maniera corroborata artificialmente da tonnellate di farmaci e di cortisone che mi sono preso questa notte. Ieri non sono andato in onda perché non avevo più voce. Oggi questa è la voce che, grazie alle mie fedeli amiche farmaciste, posso darvi e posso parlare con voi. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Ho riconosciuto un po' la definizione molto bella che tu hai dato di casa, cioè di quel disordine che ti è familiare, no? Ma che dove tu ti senti a tuo agio. E quella per molto tempo è stata casa mia. Poi in realtà l'aggettivo familiare è quello che si sposa più su con la mia definizione di casa. Cioè mi sono accorto per vicende personali che mi hanno, mio malgrado, portato fuori per parecchio tempo all'estero, e che a casa mia è dove ho le persone che amo, dove c'erano mia moglie, dove c'erano i miei figli, dove c'erano gli amici a cui voglio bene, ovunque loro sono è casa mia. Quindi casa tua è la casa dove stanno le persone con cui hai costruito qualcosa. Sì, assolutamente sì. Che sia una casa provvisoria, che sia una casa definitiva, che sia anche una casa raffazzonata, ma quella in quel momento diventa casa mia, dove torno e trovo le persone che amo. Se le persone fossero messe in un'altra casa, per te rimarrebbe comunque quella casa tua, se legata alle persone, o le persone più gli oggetti, il luogo fisico, rappresentano il senso di casa? No, più le persone, dove metti loro io sto bene. Allora, se per assurdo, facendo un paradosso, cascasse casa tua, io prendessi tua moglie, tuoi figli e te, ti mettessi in un'altra casa, sarebbe comunque casa tua. Sì, se anche una tenda diventerebbe casa mia. Questo è importante. Io sto raccogliendo varie ipotesi. Per qualcuno potrebbe dirmi no, non sarebbe mai casa mia. La signora che urlava, abbiamo sentito, disperata, dice: io vivevo sola, lei era sola, lei non aveva persone, probabilmente erano i ricordi che rimbalzavano in quelle pareti sconquassate, antiche, non a norma antisismica sicuramente, ma quella era casa sua. Nicolò, buongiorno. Sì, pronto? L'ascolto. Sì, mi sente? Certo. Sì, buongiorno. Ecco, il problema della casa. Io per esempio sono nato in una casa di cui non ho nessun ricordo. Poi mi sono spostato su un'altra casa, ho cambiato spesso case. Fra l'altro sono un ingegnere che costruisco le case degli altri. Ne avrò viste centinaia, forse qualche migliaia, ma non le riconosco come tali. Ebbene, adesso sto da più tempo in una casa. rimasti 5 dei miei figli, dove vengono 10 dei miei nipoti. E la casa mia è quindi un insieme di muri, di mobili, di persone e di ricordi, soprattutto di ricordi legati sia alle foto sia agli oggetti dei miei, che non ho, dei miei genitori, dei miei parenti carissimi con cui ho vissuto. E quindi casa mia è questo insieme, è quella dove dopo una giornata di lavoro, dopo aver fatto una giornata di cantiere, dopo aver affrontato un viaggio lungo, rientro e trovo la mia sedia, i miei quadri, Piero, facendo l'ingegnere dipingo. Nicolò, se lei dovesse scegliere, le faccio una domanda, potrebbe sembrare insidiosa, ma con la serenità con cui la esprimo, ma la faccio anche a me stesso. Se lei dovesse scegliere un posto per morire, dove vorrebbe morire? Dove morire? Beh, vorrei morire probabilmente in una casa di campagna, ma vorrei morire con tutti i miei attorno, sarebbe forse eccessivo, però non riuscirei, sono certo, a morire serenamente se non mi guardassi attorno e vedessi i visi delle persone care che vedo quasi tutti i giorni. E questo lo sa perché spesso mi domando, quando metto la chiave nel portone del mio studio, dici, un domani da questo portone io ci uscirò con i piedi davanti, e per questo l'ho fatto la domanda. Piero, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io sono 30 anni che vivo in vari camper, perché ogni 400.000 chilometri li demolisco, e io mi sento proprio che sono io casa, cioè mi sento totalmente bilanciato, in equilibrio in ogni punto dove vado, dove mi fermo, scendo, e quella diventa casa. Le poche cose che mi porto dietro, libri, film, sono musicista, suono per strada e basta, quella è casa, ovunque io sia. Lei viaggia sempre solo, Piero? Sì, avrò tirato su 2000 autostoppisti negli ultimi 30 anni, a parte questi incontri occasionali, sono solo, sì. Quindi lei, Piero, diciamo, ha la caratteristica, la definizione proprio antropologica, fisiologica del nomade. Lei è un perfetto nomade, lei sta bene ovunque si possa fermare, ovunque casa sua, non predilige nessun luogo, nessun posto. Lei, la casa è una dimora interiore dove è già collocato tutto quello che le serve. Esatto, assolutamente. Da ormai sono 31 anni, da quando avevo 18 anni che ho detto a mia madre io vado, lei è un po' agitata, mi ha aiutato a comprare il primo furgone per sopravvivere, poi gliel'ho ripagato in poco tempo e da allora giro. Non penso ci sia un posto in Europa dove non sia stato. Grazie Piero. Franco La Cecla, buongiorno. Buongiorno. Franco La Cecla è un antropologo, un architetto, ha scritto vari saggi, fra cui ricordo Mente locale per un'antropologia dell'abitare, o Contro l'urbanistica, la cultura delle città, Einaudi e altri vari libri. L'ho fatta ascoltare, Franco La Cecla, alle prime impressioni a caldo. Mi piaceva capire questo concetto della casa, perché molti non si spiegano come mai i terremotati vogliono rimanere attaccati alle loro rovine, rimangono nella tenda, non si allontanano. Qual è questo legame indissolubile con delle case che in fondo sono cadute, sono baracche, case non antisismiche? Perché non vanno in un bel albergo, non si fanno dare una bella casa? Ecco, lei cosa ha da commentare rispetto a quello che ha sentito? Poi entriamo più nel problema. Intanto che appunto poi il legame non è con la casa soltanto, nel senso che molto spesso la gente vuole restare dentro al paesaggio in cui ha vissuto. Cioè io quando sono andato dopo il terremoto in Abruzzo, la cosa che mi ha impressionato è che certo di fronte a me avevo dei borghi crollati, però poi il paesaggio intorno era magnifico, per cui insomma in qualche modo la casa non è soltanto il tetto sulla testa, ma è tutto ciò che c'è intorno, e quindi la geografia a cui uno appartiene. In realtà appunto io dico sempre che noi siamo carne e geografia, quindi sicuramente la casa di per sé non è il luogo solo dell'appartenenza, lo è molto di più la casa con tutto il paesaggio che c'è intorno. Quindi mi scusi, quello che noi vediamo dalla finestra ogni giorno, lei pensa che io nel mio studio davanti a me è una finestra cieca, da un cortile interno vedo altre finestre, eppure sono affezionato a quel colpo d'occhio, mi affascina vedere quel lembo di cielo che cambia con il cambiare dell'ora, con il cambiare del tempo, della stagione, quello è il mio paesaggio, è un paesaggio tristissimo, mi avessero detto, ma io non potrò mai più farne a meno. Vabbè, poi insomma il bar sotto e poi probabilmente il giornalaio, insomma in qualche modo anche tutto ciò che c'è intorno, per quanto uno viva in città, con dei paesaggi molto più limitati, quindi sicuramente c'è una grande differenza tra chi vive in una casa appunto in un borgo o in campagna e chi vive in un appartamento in città. La differenza è che appunto la geografia è un po' più ridotta effettivamente in città, in più noi siamo molto più appunto nomadi dei nostri genitori e dei nostri nonni, il che significa che le case sono importanti, però le case oggi invecchiano prima di noi, questa è la cosa che non è più sopportabile. Soprattutto lei lo sa che, essendo anche architetto, oggi l'idea è la ristrutturazione. Oggi le nostre case, anche se rimangono le stesse, vengono ristrutturate nel corso della vita almeno 3-4 volte. E quando vengono ristrutturate diventano altre case. Le case di pratica erano di corridoi con tante stanze, come fossero dei monasteri, diventano degli open space, e infatti crollano. Quando poi un attimo c'è troppa pressione cadono, perché nascevano per contenere un modello di famiglia, un modello di umanità, e vengono, cambiando l'umanità, cambiando l'organizzazione sociale, destrutturate rispetto alla funzione primaria, diventano un'altra cosa e poi le case crollano. A tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca, da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Melog, cronache meridiane. I giovani stasera mi avvicinava qualche giovane e mi diceva: ma che domani abbiamo a Ussita noi? Per 10 anni faremo i terremotati, poi che faremo? Aspettiamo un altro terremoto? Questi sono drammi che bisognerebbe approfondire e valutare con attenzione, perché sono quelle riflessioni in un momento di panico, con quelle riflessioni che ti fanno. 800 24 0024, dov'è casa tua? Chi ti dice che quella sia casa tua? Come riconosci casa tua? Un cantante country americano, mi scrive Roberto, diceva: dove appoggio il cappello è casa mia. Eh sì, ma gente come me che non porta il cappello, quindi è senza casa. Un'altra signora mi dice: il nostro corpo è la nostra casa, il nostro tempio, il resto è pura illusione costruita sull'insicurezza personale. Che brava, capito? Ha raggiunto naturalmente una sorta di autocoscienza che casa sua è la sua legge interiore, ovunque sta si sente a casa. Non tutti abbiamo la vocazione degli asceti, non possiamo fare gli stiliti. Casa mia non sarebbe mai in cima a un palo, in cima a una torre. Casa mia è laddove posso fare entrare chi voglio. Ecco, ho riconosciuto veramente casa mia in un posto in cui non devo chiedere il permesso a nessuno per far entrare una persona. Non ci vuole mai nessuna preavvertire: mamma, può venire un amico a casa mia? Eh no, la casa è in disordine. Posso portare un amico a cena? Eh no, potete dirlo prima, non abbiamo fatto la spesa giusta, abbiamo apparecchiato in cucina. E andando avanti negli anni, posso portare gli amici a casa? Ma no, dai, sono stanca, via dicendo. No, casa mia è il mio studio, chiunque entra esce quando vuole. Mi telefona, passo a trovarti. Se non ho problemi, entra, non c'è problema. C'è qualcosa da mangiare? Apri il frigorifero, guarda quello che è. Basta che ti levi le scarpe e non mi sporchi per terra. Mariangela, buongiorno. Buongiorno, auguri. Grazie. Casa mia invece è una chiave, è una porta che è una chiave. Questa chiave ce l'ho io. E soltanto lei? No, non necessariamente. Anche persone a cui ovviamente la posso dare questa chiave, però è una porta che posso chiudermi. Quando io entro in casa mia e riesco a chiudermi la porta dietro, io mi sento meglio, mi sento come se avessi lasciato per un pochettino di tempo i problemi fuori da quella porta. Però Mariangela, si rende conto, rispetto a quello che hanno detto gli ascoltatori prima, questo presuppone che ci si viva da solo in casa, perché se in una casa uno c'ha una famiglia non può dire chiudo e sto dentro, perché c'è sempre un via vai continuo, felice, che dà allegria, dà gioia, dà senso della vita, ma certo, averci ma la coda io... dietro significa che non puoi chiudere. Casa tua è lo sgabuzzino in cui ti chiudi dentro, in cui lo chiudi e non entra nessuno. Sono d'accordo con lei. Rita, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, io sono stata stessa assistente di volo e insomma ho girato sempre. Nella mia infanzia ho sempre dovuto lasciare dove ero a seguire la madre, perché non potevo mai finire l'anno scolastico dove ero, questo mi ha sempre strappato. E insomma non arrivo a mettere radice da nessuna parte, sono bene dove arrivo, dappertutto il mondo, in America, in Africa, Marita, verrà un giorno che lei non volerà più, e a quel punto qual è il suo hangar finale? Il mio hangar finale è che vorrei trovare un luogo che mi piace, ma non lo trovo, e penso che insomma ho deciso io che non esiste. Un e uomo che le piace, non ho capito, indietro. Scusi, ho capito male, un uomo o un luogo? Un luogo. Ah, un luogo, mi scusi. Perché sono d'accordo con quello che ha avuto il terremoto, che la casa per me sarebbe anche la vista che vedo e che devo amare. Sono d'accordo, io una delle... dei momenti più felici della mia settimana lavorativa è quando sto sul treno e faccio il programma domenicale, il treno va, non perché non mi piaccia fare questo programma, perché è un programma totalmente privo di senso del luogo. Io sto in un treno, vedo dal finestrino il mondo che passa e raccolgo delle persone che entrano e escono come fossero dalle porte scorrevoli in quel treno. Quello è il vero senso. La mia casa è un mondo che si muove e attraversa altre persone. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, Past President Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Beppe, dimmi, quanto il nostro star male e la nostra non sempre felice capacità di percepire il mondo intorno è legato a un rapporto infelice con la nostra casa? Beh, sai, proprio pensando al terremoto di questa notte e al concetto di cos'è casa, emerge il fatto che è soprattutto una rete di relazioni che è legata a un luogo fisico, che è l'abitazione, il luogo, ma è pensando specificamente a queste persone che stanno su queste montagne, quel bellissimo parco dei Sibillini, che rispetto al Monte Vettore, se tu hai presente, da un lato c'è quello che è stato colpito con Amatrice, cioè Arquata del Tronto, Tretare, quella parte lì dell'Ascolano, dall'altro lato, appena passi dall'altra parte, c'è questa parte del Maceratese con questi paesini bellissimi ma microscopici. Quando tu pensi che fra Ussita, Castelsangelo sul Nero ci saranno 300-400 persone, allora questi spesso, soprattutto d'inverno, sono i residenti che rimangono lì, sono persone di una certa età, però che hanno il privilegio di vivere in un contesto bellissimo in cui conta la rete di relazioni, i rapporti, le persone che vedi ogni giorno, quelle con casomai che sono cresciuti nel tuo piccolo paese a cui sei legato, e questo conta di più della bellezza del tuo loft, casomai con vista sul Lungotevere o sulla bellissima casa nel centro storico di una metropoli. Cioè, quando pensi che confrontiamo dimensioni fra un grande condominio di una città metropolitana e un paese nel parco dei Monti Sibillini, allora le relazioni fra le persone, il vissuto rispetto alla casa è radicalmente diverso. Poi mi spieghi perché a un certo punto della vita però accade, a questo punto non è che chiedo a un amico un'analisi strappata al microfono, viene il desiderio di avere un buco proprio, con tutto l'affetto e l'amore si possono avere per la famiglia, per gli amici, però uno sgabuzzino che chiudi chiave e non t'entra nessuno, come mai? Beh, è legato al fatto che quando la nostra esperienza di vita arriva a una fase di maturazione, come può essere quella dell'età che io e te condividiamo, gli spazi che noi rivendichiamo come propri non siamo disponibili, gli spazi anche dentro la nostra mente, ma anche nella nostra vita di relazione, non siamo disposti a contrattarli, a farli oggetto di negoziazione con nessuno. Tanto che arriviamo ad avere la necessità di definire degli spazi reciproci anche all'interno di una relazione come quella matrimoniale. Tu il tuo studio lo chiudi a chiave a casa tua? No. E io a un certo punto ho la necessità che il posto mio, sai, perché lasciare un computer acceso e avere la sicurezza che nessuno metterà le mani su quella tastiera anche solo per giocare o per fare un videogioco è una grande cosa, devo dire, è fondamentale. Quindi la percezione di casa propria è anche legata all'evolversi dei nostri strumenti di interazione con il mondo. Noi con il mondo interagiamo anche attraverso le macchine. Giovanni, buongiorno. Giovanni. Buongiorno. Sì, sì, buongiorno. E volevo dire che io nei primi 15 anni della mia vita ho cambiato 10 appartamenti, quindi può anche darsi che il mio ragionamento sia influenzato da questo. Nel senso che secondo me la casa è importante, è vero il panorama, è vero la vicinanza degli amici e tutto quanto, però a volte è condizionato anche dalle cose che possono cambiare. Faccio un esempio banale, no? Una casa che ha sempre vissuto nella tranquillità, tutto un tratto mettono un pazzo sotto, alle 3 di notte ti svegliano, ti rompono le scatole, quindi praticamente quello non è più vivere. E a quel punto lì cerchi di cambiare casa, cerchi di andartene via per andare via in un'altra casa più tranquilla. Quindi non è praticamente il punto dove nasce e ci vorresti morire. Questo è il mio ragionamento. No, sono perfettamente d'accordo. La casa natale, la casa patria, la casa in cui sei stati bambini, il giardinetto con il glicide in cui giocavo con il mio primo fratello, l'orticello dei nonni, il tavolino di marmo tondo sotto la vigna di uva sultanina che mia nonna usava per portarci le merende con i biscotti con il burro spalmato sopra. Beh, quella sì, fa parte dei ricordi, ma non ci vorrei tornare mai, non è la mia casa. 800 24 00 24, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, cos'è casa mia, dov'è casa mia, da cosa mi accorgo che questa è casa mia. Pietro, buongiorno. Buongiorno, sono Pietro, arrivo a Verona, ma invece sono di origine serba e sono cresciuto e nato in Zagabria, vissuto là fino a 32 anni. Mai pensato di abbandonare, diciamo, ex Jugoslavia, adesso questa è Croazia, però con la guerra negli anni 90 sono dovuto abbandonare, diciamo, mia casa, mi è stato distrutto, diciamo, parecchio casa. Mi dica Pietro, in tre parole, cos'è casa sua, cos'era, cosa la ricorda, la descriva con tre aggettivi. Guarda, io di quella mia vita di primi 32 anni guardo con grande distacco, anzi mi dà fastidio, perché mi sono chiesto mille volte se avevo cresciuto nella città giusta, tra le persone giuste, perché con la guerra naturalmente c'era guerra tra varie etnie, diciamo, varie perché religioni. Perché la sua è una guerra etnica, quindi lei dice, se nascevo dalla parte in cui mi riconoscevano il diritto di esistenza, vivevo meglio. Sì. È molto chiaro. Una minoranza etnica, quindi siamo dovuti, come tutte altre, diciamo, minoranze etniche in tutti i Balcani, più o meno siamo stati fregati noi, diciamo. Cioè si sentiva comunque uno straniero anche se era a casa sua, questo è il fatto. E infatti se uno mi chiede dove è casa tua, da dove sei, non so rispondere, perché vabbè, quella casa dove abito adesso, per carità, quando torno da lavoro, che faccio camionista ogni giorno, faccio 500 chilometri, e durante la giornata quando penso dove che vado a dormire, a vivere, a mangiare, a guardare TV, non so, essere con la moglie, figli, eccetera, mi dà una bella sensazione. Però non è proprio 100% casa mia, non so, è difficile da spiegare. No, ma io la capisco perfettamente, anche se non conosco nella drammaticità la sua esperienza. Sentirsi in un posto in cui si è perlomeno tollerati al massimo, ma che tutti vorrebbero che tu te ne andassi, e si sente sempre straniere a casa propria. Questo è il destino di tutte le minoranze etniche. Nasco in un posto in cui non mi riconosco il diritto di esistere, perché io sono diverso dagli altri, solo per il fatto che sono nato con un nome diverso e da persone diverse. Ho gli stessi diritti sulla carta, ma in realtà sono diverso. E poi andando avanti nel tempo si radicalizza il senso di disprezzo per la diversità, e naturalmente poi ci sono le guerre civili. Francesco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, ascolti, io chiamo da Roma e vivo una casa grande dove ho cresciuto i miei figli, adesso 3 dei 4 già se ne sono andati, hanno una loro vita. Stiamo pensando di vendere questa casa perché per me e mia moglie è troppo grande e faticosa, non ho nessuna nostalgia di lasciarla, la mia vera casa. Le posso proporre, lei vorrebbe in cambio una casa piccola e confortevole a cambio e lascia questa grande? Guardi, avrei un'idea. Ci stiamo pensando seriamente. Che quartiere è casa sua? Monte Sacro di Roma. Monte Beh, non Sacro. Male, sì. Vabbè, quindi... no, però è un villino, quattro piani, sali, scendi, salotti, pulisci di qua, pulisci di là. Beh, avercela. Cioè... No. No, detto questo, la mia vera casa, cioè la casa, mi dicono che sono un po' pazzo, è il mio grande magazzino, perché io ho una ditta edile, quindi ho tutte le mie attrezzature, conosco tutti i buchi, i buchini, tutte le cose che ho. E quando io sto lì a farmi qualche cosa, un bricolage, fai da te, così che mi piace, ho una buona manualità, io lì mi sento. È la Wunderkammer dell'Umarell, cioè dove c'ha il Black Decker e gli altri attrezzi, quello è in sintesi. Bravissimo, sì, diciamo un po' più professionale, non è proprio il Black Decker. Vabbè, c'è roba più professionale, ma sempre c'è sempre sì. La seghetta circolare, il trapano. Sicuramente sì. L'imbullonatore. Sì. Ma che lavori fa? Cosa ne viene fuori da questa... meraviglia. Ah, guarda, io ho una ditta edile, però mi piace fare, che so, un mobilino per mio nipote, un piccolo un comodino, una cosa. Io mi metto lì con la pazienza, recupero un po' di... Ma io lo capisco, esattamente, per me potermi rinchiudere a scrivere quello che voglio senza che nessuno mi interrompa. Noi siamo Umarelli, ognuno poi ha la sua capacità di usare il bricolage secondo le sue attitudini. Lei imbullona, cuce, salda, vernicia, cosa che a me piace fare molto, ma non mi riesce bene quanto mi riesce molto più facilmente magari scrivere. Grazie. Beppe Neri, vedi che stiamo arrivando alla conclusione che in fondo è la casa anche dove noi ci possiamo produrre liberamente. Questo signore che ha un villino di quattro piani a Monte Sacro potrebbe fare quello che vuole, si chiude poi alla fine nel garage, nella stanza del bricolage, perché lì è veramente solo e veramente nel suo regno. Ma tu mi facevi pensare invece alla Wunderkammer, dalla stanza d'ambra di San Pietroburgo fino al magazzino della periferia romana dove ognuno fa il suo bricolage. È un bel salto, ma il concetto comunque ha una sua linearità, certo. Ma quanto è terapeutico però starsene bene a casa propria? Assolutamente, perché è la tutela del proprio spazio. Una delle situazioni più foriere di tensione è quando uno si sente privato del senso della definizione del proprio spazio, quando si sente invaso, e questo può valere a vari livelli, sia nelle dinamiche interpersonali sia nelle dinamiche di gruppo, ed è uno dei motivi che scatenano le forme di aggressività più violente. Quindi certo, la tutela del proprio spazio è vitale. Uno passa la motosega proprio perché magari trova qualcuno che gli sposta il foglio di carta in cui va segnato qualcosa di importante. Anna Rita. Buongiorno, io volevo raccontare un pochino la mia esperienza. Veloce, che ha solo poco, un minuto e mezzo. Ecco, è tutto allora, per lei. In 36 anni di matrimonio ho fatto 15 trasferimenti per via del lavoro di mio marito. In questi 15 trasferimenti anche all'estero, in case in affitto, quindi in case più o meno belle. Conserva ancora il marito lei? Sì, certo. Ah, quindi le stava bene. Sì, certo, ma eravamo tutte e due convinti di quello che facevamo. Il discorso è che la mia famiglia è sempre stato, mi ha seguito sempre, la mia casa, ecco. Quindi i miei affetti, il mio cane, la mia 500, le mie cose e i miei affetti. Ora che i figli sono grandi, che hanno fatto la loro strada, per me la casa è la 500. È la mia prima casa, la casa che ho acquistato con tanti sacrifici. Ritorna alla sua casettina da nubile, dove ha passato tanti bei momenti, ha conosciuto tante... No, da nubile no. Ah, no. Sempre col marito. No, io la mia prima casa che abbiamo comprato con tanti sacrifici è quella la mia casa. Vabbè, tornerete nella vostra casetta, lascerete la casa grande ai figli, saranno tutti contenti. Alla prossima.